Diretta dagli studi di Radio Centrale 97.5 a Termini Imerese, Andrea Massaro e Antonio Panzica da Tre Stagioni presentano L'Onda in Onda! Bene, eccoci in diretta. Ehi, bentornati ogni mercoledì a cosa bellissima. Insomma, ogni mercoledì no, perché ogni tanto io ti pianto per concerti. È vero. E altri impegni, sì. Però, insomma, oggi ci siamo tutti quanti. Ci siamo, io, te e quell'animale dietro il vetro che tu gli dici alza un po' il volume e lui manda spara, esatto. Sino all'iperuranio. E soprattutto ci fa la pernacchia dopo la presentazione, bellissima. E noi per carità, ma ci stava, guarda. Era la terza, il terzo grande. Altrimenti inizio. Sembravate una trasmissione vera, invece. E beh, invece noi facciamo finta di essere in radio. E tra l'altro era il terzo inizio californiano, un esatto. Po' meno californiano. Un po' meno californiano, era stato un po' più serio. Infatti sembrava una trasmissione radiofonica. E lui ci ha messo la pernacchione. Ragazzi, allora, pensa una cosa. No, aspetta, ricordiamo subito tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando. Ah, giusto, diamo le coordinate. Come dicono allora, quelli se bravi. Siete in macchina e ci stanno ascoltando sui 97. Andatevi a schiantare. Non fate niente, perché insomma non potete fare molto. Esatto. Vabbè, già fanno che vi ascoltano, è un miracolo. Esatto, se non cambiano già col ditino lì. Però attenti perché vi distraete se cambiate, quindi restate con noi. Inoltre, se siete invece a casa e vi manca il nostro faccino, collegatevi su www.radiocentrale.it, www.politei.it e poi cliccate in alto su ascoltaci in radio, così potrete anche vederci in diretta. Esatto, e in più inoltre, se vogliono interagire con noi andate esatto. Sul nostro profilo Facebook, se non siete già nostri amici chiedeteci pure amicizia, noi parleremo con il gran visir Scaccia e decideremo se accettarvi o meno. www.facebook.com/onda in onda. Ma no, ma li accettiamo, non, niente può essere prendiamo peggio di voi. Ah, tu dici vabbè, ok. Grazie Totò, è sempre un amore Totò. Sai com'è, insomma, chi ci segue potrebbe anche essere peggio perché proprio ci segue. Inoltre, se volete... sì, perché il carnalivaro è quello esatto. Che va presso, esatto. Insomma, non mai quello che inoltre se volete sentire le nostre puntate vi basterà andare su www.blogspot.com/ondainonda e vi ascoltate insomma le vecchie puntatine che ci siamo fatti. Hai notato che il bambino qui non è più dislessico? Non sono più dislessico. Non è ancora presso a dirlo, no, sei arrivato da poco. Io ho visto che nel conto in banca gli mancano 5.000 euro che credo abbia utilizzato per un corso, di italiano è per curare la sua dislessia, la fasia dell'area di Broca, esatto, la 22, esatto. Visto che studio medicina. Va bene, insomma, grande puntata. Abbiamo troppi argomenti. Cioè, voi pensate quando si sveglierà Lamberto Sposini, trova William e Kate sposati, il Papa beato e Bin Laden è morto, penserà di aver dormito per anni. Anzi, facciamo gli auguri a Lamberto Sposini, speriamo si riprenda. Ah, mi sembrava Osama. No. Ma perché Osama? Dicendo? Se stiamo parlando di Lamberto. No, tu hai detto che non ci sono. Ma Lamberto appena vedrà William e Kate dice "Ah, gli Sposini". Sì, lo sapevo. Vabbè, ecco, Totò la sta capendo la faccia di Totò. Era nell'aria. Totò, ti prego, ogni tanto mi vergogno molto per voi. Dovresti autoinquadrarti. Autoinquadrati quando fai queste espressioni, la gente vuole vederti. Comunque, noto che è sparito il mostro verde dalla webcam. È vero, siete ritornati a colori. Ma chi è il mostro verde? Voi eravate un giorno, per chi ci seguiva, che seguite l'altra puntata, che parlavo io, è arrivato un mostro verde a conquistare la webcam e poi mi ha catapultato al contrario. Mi ha fatto diventare viola, insomma. Erika Mu, che l'abbiamo ascoltato al concerto del 1° maggio. Tu che ci sei andato, stronzo? Arem. Mm-hmm. fossero ora mi dà scuotere. Ma non ho portato frutti con me, come mi hanno insegnato viaggio leggera al contrario di come sono nella vita. No, fa proprio cacare, te lo dico proprio anche ai nostri amici a casa. No, fa proprio venire la sciolta, proprio lo scissone. No, scusami, ma tu stai parlando in diretta di un artista molto particolare. Sì. Vabbè. Che fa cagare, no, un artista che fa cagare. No, Totò. Erika Mu. Noi ci credo. No, noi ci dissociamo. Anche se devo dire che se abbiamo lanciato questa, poi ci vuole qualcosa per rispondere. Sì, sì, è molto lento. Ora, tutto tra poco c'è la pubblicità, quindi cambiamo proprio aria. Tra pochissimo, tra tre minuti. Vabbè, chi se ne frega. Insomma. Allora, senti Andrea, tu che sei stato al concertone del primo maggio, cosa ci racconti così proprio in brevissimo? Sicuramente è stato meglio degli altri anni, insomma, stato solo per il fatto che c'era. Dici che c'erano di quest'anno era sottotono. No, no, non è vero, anzi, è stato bellissimo, soprattutto perché Morricone. C'è stato Morricone, ragazzi, che ha fatto la sua elegia. Dalla e De Gregori. Dalla e De Gregori, ma soprattutto. Ma Dalla soprattutto. Esatto, che non è un cantante, veramente un consiglio. Due deficienti. Io lavoro con due deficienti. Lavoro. No, lavoro è una parola. Vabbè, no. Insomma, un bellissimo concerto, anche perché il complimenti ai tecnici del palco, che hanno fatto un palco completamente innovativo. Credo che in Europa sia stato uno dei più grandi, con queste caratteristiche. Con queste caratteristiche. Era semovente, se non sbaglio. No, non era semovente. Aveva gli altri anni c'è stato un palco che ruotava. Mi ha ucciso, cioè con questo no mi ha ucciso. Sì, sì, no, perché gli altri anni ruotava il palco e c'era un palco davanti, un palco dietro. Stavolta ruotavate 700.000 persone, esatto, attorno al palco. Era più comodo. Abbiamo spostato fantastico anche San Giovanni. Fantastico. No, in realtà c'era un palco che andava a binari, due palchi che si alternavano, uno avanti e uno indietro, destra e sinistra, e dietro invece c'era tutta l'orchestra con gli archi. Bellissimo. E i cori, 62 insomma, elementi o qualcosa del 72 genere. 72 elementi, sì, stica. Tra l'altro hanno suonato diversi artisti con l'orchestra. Hanno scelto di suonare Caparezza, Subsonica, Silvestri, se non sbaglio. Eh beh, gente così, i primi, sì, che sì, capitano. I primi che capitano. Se non sbaglio anche Dalla e De Gregori hanno fatto dei pezzi con l'orchestra. Bellissimo. E hanno eseguito anche Disperato e Erotico Stomp, che ne abbiamo passato l'altra volta. Ah, sì, insomma, sì, non sì, manca sì, mai. Perfetto, intanto c'è Totò che parla al microfono. Tra un po' c'è la pubblicità, però ovviamente se vogliamo accennare un po' quello di cui parleremo, dobbiamo convincere la gente a restare con noi. Esatto, convinciamo Jacopo che ci sta facendo dei saluti molto affettuosi da questo profilo Jacopo. Facebook. Un nostro amico, non ho capito perché non dovremmo salutare un nostro amico solo perché si chiama Jacopo. Intanto salutiamo anche Fabio e Gloria, nostri amici che ci stanno ascoltando. Allora gli posso dedicare io una canzone a Fabio e Gloria, a tutti questi amici, sì. Okay, vai. Ombrelloni, Simone Cristicchi. Ombrelloni per tutti voi. E poi pubblicità. Sto pensando seriamente a una canzone per l'estate, maledettamente stupida da farsi canticchiare orecchiabile, dal sapore di asciugamano col calor latino con un ritmo sudamericano. Sto pensando a quanti soldi potrei farci veramente, diventasse la canzone dell'estate per la gente. Discoteche di Riccione, dentro ai ristoranti, dalle radio nazionali e nei villaggi di vacanze. L'ombrellone te lo ficco nel culo e il gelato te lo spiaccico in faccia. Questa sabbia te la tiro negli occhi e poi ti prendo a calci lungo la spiaggia. Con la sdraio ti ci spezzo la schiena e ci piscio sulla tua abbronzatura. Ora ingurgita la crema solare prima che ti affoghi in questo schifo di mare. Seriamente di scapparmene in montagna. montagna. La mia musica sarà soltanto un asino che raglia nella pace dei sensi. Praticando un po' di yoga scoprirò la vera essenza che si cela in ogni cosa. Ripenso a questo pezzo, ad un balletto da abbinare. Quattro passi, due, tre mosse, anche un orso le sa fare. Tutti quanti poi si sentiranno più felici, solo un po' più stronzi ma lontani ormai dai loro uffici. L'ombrellone te lo picco nel culo e il gelato te lo spiaccico in faccia. Questa sabbia te la tiro negli occhi e poi ti prendo a calci lungo la spiaggia. Con la sdraio ti ci spezzo la schiena e ci piscio sulla tua bronzatura. Ora ingurgita la crema solare mentre ascolti la mia canzone per l'estate. Canzone per l'estate. Mia canzone per l'estate. Questa sabbia te la tiro negli occhi e poi ti prendo a calci lungo la spiaggia. Con la sdraio ti ci spezzo la schiena e ci piscio sulla tua bronzatura. Ora ingurgita la crema solare. Questa è la mia canzone per l'estate. Ci sentite? Sì, c'era questo tentativo fantastico, è andato benissimo a buon fine di capitare questo pezzo siciliano tipo Usciano, un gran pezzo però un gran pezzo di mala figura con chi ci sta ascoltando, più che altro Totò se la ride, cioè lo fa divertire il ma fatto. Sì, e non ma trova sì, neanche dai. Il sottofondo come allora, senti, parliamo, ovviamente parliamo, lui non lo trova mai. Parliamo di fatti, non parole, fatti. No, io politici non ne voglio trattare oggi. Bello. Comunque, di cosa vuoi parlare? C'è l'imbarazzo della scelta. Bello, è tre ore che c'è. Vabbè, non ti preoccupare. Non trovo più. Sì, vabbè, totalmente. Ma che vabbè. Cosa stai cercando il sottofondo? Mettine una a caso. Vabbè, metto il mio, dai. Fantastico, bravo. Ora poi ti dico dove. Ok, vabbè. Bravissimo. Hey, sono creato la disco dance di Toto Scaccia. Questa musica in sottofondo. Allora, di cosa parliamo, Andrea? Di William e Kate? Ti va? Ti un prego, po' di gossipaccio. Un po' non di gossipaccio più di William e Kate. Allora facciamo una cosa, lanciamo un sondaggio tra coloro i quali ci stanno ascoltando. Di quale argomento tra quelli forti preferite parlare? William e Kate, Osama Bin Laden o Andrea Massaro che va a Pisa e scatta la foto alla torre di Pisa dritta tre volte. L'unico turista al mondo che prende la torre di Pisa in modo tale che sembri dritta. Che ti devo dire, l'ho presa dritta. Nessun commento. Torniamo nessun alla commento. Discoteca di Totò. Ma scusami compa, il tuo obiettivo era far vedere che c'era un miracolo davanti ai tuoi occhi, che no, la torre era proprio tornata... non ci ho fatto ti caso. Sei scordato che sì, era ho per... scordato che era la particolarità della torre, che fosse tra l'altro la particolarità di Pisa che non ha nulla a parte il campo dei miracoli. Esatto. Come hai detto tu prima, si attraversa a piedi, che nelle pause noi ci scambiamo questi racconti di vita col buon Andrea Massaro. E invece io direi di parlare di Osama Bin Laden. Per forza dobbiamo parlare. Due parole. Osama Bin. Quindi neanche il cognome. Vabbè, fermiamoci qui. Bin. Va bene. Mister Bin. No, sai cos'è in realtà? Che è... no, dove, c'è due parole vanno spese, c'è un argomento però, più vicino a noi, che è più importante di Osama. Dici. Bin Laden. Riguarda i pagliacci. Ah, sì. Giusto anche tirare il naso quando parli dei pagliacci. Sì, no, perché io credo che se Totò capisse cosa stiamo parlando ci sta tra qualche il giorno, insomma, abbiamo uno scoop in anteprima. Sì. Ci sarà un servizio a su Striscia la Notizia. Su Striscia la Notizia. Vi invitiamo a seguirla anche stasera, potrebbe essere, non si sa, perché sì, comunque infatti sono iniziati ieri i servizi di quel tipo lì in Sicilia, quindi saranno uno dopo l'altro. Credo proprio di sì, e appunto quello di ecco, lui lo sapevo che doveva mettere qualche stronzata. Perché stai di mettendo una stronzata? Uè, no, dica. Lui ha cercato. No, perché prendiamo pagliaccio. Pagliaccio. Lui scrive pagliaccio. Lui cerca circo. Sì, e prende la prima canzone. E spera che gli esce qualcosa di circense. In realtà sarà un video. No, silenzio. No, ma intanto vediamo se parte. Che prima con siciliano, sugno, sciano, là, tipo sciano. Insomma, allora dicevate, pagliaccio. Diciamo che in queste sere vi invitiamo a seguire Striscia la Notizia, perché ci sarà una visita ad un pagliaccio. Non diciamo altro. No, diciamo che è venuto Edoardo. Guardo stop a Termini, l'amico che è, degli, animali. Sì, sì. Degli animali, che ha è quello che hai capito un proprio dato servizio in un posto un po' particolare che diciamo appunto a Termini riguardante. Vabbè, fermiamoci qua anche perché non vorrei che ci venissero a chiedere, ecco, voi sapete riuscito a metterlo. Attenzione, questa attenzione. Sembra una a me questa sembra la musica. Ma che stai facendo? No, silenzio no io volevo farla commentare ai nostri ascoltatori, incredibile. Comunque tolto questo, ma che tra l'altro ovviamente lui ha preso dalla pianola di uno un che si filma da... con la Roland E12. No, guarda, Totò, come regista e fonico sei proprio scarso. Dicevamo dunque. Sentite, no, io basta, direi comunque prima di tutto di collegarci con lui. È giusto per sentire un commento dall'alto. Un commento dall'alto andrebbe io direi sentito. Che andrebbe sentito. Vediamo se riusciamo a collegarci con lui. Intanto vediamo se riusciamo a collegarci con Totò, che già sarebbe qualcosa di molto interessante se lui capisse al volo. Vediamo un po' se riusciamo a collegarci col presidente Giorgio Napolitano. Vediamo, chiediamo la linea. Vediamo. Sì, dovrebbe. Pronto? Pronto, presidente? Azza, non giocavo da niente. Pronto, presidente, come non giocavo? Mi stavano a spiegare come si gioca a briscola. Come? Presidente, non sa giocare a briscola? No, non mi è mai capitato di giocare a briscola. Ho capito, intanto benvenuto, insomma, bentornato sull'Onda. Sono Day veramente felice di stare a con voi. Sì. Presidente, ma ha qualche problema di... Oggi ha mangiato una patata, non lo so. Oggi è un la po patata lei. L'ho mangiata. No, da quando no. Vabbè. Presidente, intendevo dire si è scottato la lingua, ecco, volevo dire questo. Ah, diciamo che si riferisce perché se la patata è calda. No, una patata bollente, diciamo. E lui continua a venirmi dietro, non ha capito vabbè. Forse... Okay. Di chi presidente! Di patata da pelare. Che lui l'ha presa dritta. L'ha presa dritta sei tu. Lei è il tipo della torre di Pisa. Sì, presidente. Io volevo fare uno saluto veloce, non faccio mai saluto. La prima volta voglio salutare. Indoviniamo a chi? No, non indoviniamo. Se lo indovini, io ti do 1.000 euro. A sua moglie Clio? Assolutamente no, perché l'ho parcheggiata. A Silvio Berlusconi? No, io saluto Alessia. Ma chi è Alessia? Una suddita. Come una suddita? Ho deciso che da oggi, se fate 56 milioni di puntate, io ogni giorno saluto un cittadino italiano. Ah, ecco. Sono anche il primo cittadino, mi toccherà salutare o secondo o terzo o certo, quarto. È giusto, è ma il secondo è il senatore Schifani. Guarda, su questa battuta. No, non è una battuta, no, la verità. È lui, la seconda carica dello Stato. Ma animale. Ma non vuol dire che è il secondo cittadino. No, scusa. Sì, è il secondo, sì, cittadino. Il secondo cittadino d'Italia. Il terzo è figlio. Se lei è il primo, è lui è il secondo. Aspetta, vuoi ripetere un attimo chi è il quarto? Berlusconi. Cazzo, io gli dico a Clio che esce dal garage e ci facciamo un giro dell'Europa, che mi pare quasi. Poi c'è la prima donna che è Clio. la prima donna è Clio. Eh sì. E la seconda donna, non so come si chiami la moglie di Schifani, però insomma sarà lei. Dica, sarà anche Clio, sarà anche stiamo mia moglie. Un po' andando così a giro. Sì, sarà anche Clio, ma a me fa un poco schifo, anche se mia moglie dico non è sta gran prima donna. Vabbè, Rosaria si chiama la moglie di Schifani. Ah, Rosaria. Come la come l'arancia siciliana, quel signore sa veramente tutto. Comunque avete qualcosa di domandarmi, da domandarmi sul diciamo sul presente, o posso tornare a giocare a briscola? No, presidente, lei può tornare. Mentre insomma, Daniela si chiama la moglie di figli, non lo sapevo. No, per la cronaca. Quale delle due? Io volessi capire perché stiamo facendo l'albero genealogico. No, parliamo delle prime donne, dei primi uomini e così lei via. Lei vuole salutare tutte i cittadini. Ma io ho detto una alla volta, oggi saluta Alessia, l'altro manco su chi sono. Ma Alessia ce ne saranno circa 6 milioni in Italia di Alessia. E vabbè, chi sta è una, non è che dobbiamo ora pure dire i cognomi. Presidente, ma scusa, lei mi crea problemi, ci sono i corazzieri che hanno già le corazze belle girate, no? Direi di non continuare. No, presidente, io insomma volevo chiederle un commento su quello. Solo che... uno, oggi lei ha solo una domanda. One shot, one shot. One shot? Only one. Lei ha visto le foto di Bin Laden? No, arrivederci, è stato un piacere stare con voi. Arrivederci, presidente, la salutiamo. No, ma io volevo dire perché dopo le foto di Bin Laden. Ma c'è stato Giorgio? Perché io ero in bagno. Sì, c'è stato Giorgio. Incredibile. Ha telefonato, sì, telefonato. Ma al solito. Io ero in bagno a telefonare. Sai cos'è? Le abbiamo chiesto se aveva visto le foto di Bin Laden. Non le ha viste, non le ha viste nessuno in realtà. Ma c'è una grande attesa. L'attesa è così grande che io mi sto già dimenticando quella di Pippa Middleton. Sì, incredibile. Ma tu l'hai vista Pippa Middleton? Ecco, apriamo. Una bella donna. Una bellissima donna. Cioè, praticamente in un attimo è nato il gruppo su Facebook. Fan ufficiali, in inglese è scritto del culo, cioè sì, del dietro, del ass di Pippa Middleton. E subito ti immagini Berlusconi, guarda, ti chiamerai anche Pippa, ma non mi sembra affatto tale. Cioè, incredibile. E infatti Harry le ha fatto la corte spietata per tutto il matrimonio, prendendo per il culo William, che secondo lui aveva scelto quella peggiore delle due. Ma lo sai cos'è? Il fatto è che ci hanno provato tutti... Ma a farsi una pippa? No, tranne te. Ah, vabbè, ma lui non si è ancora collegato. Io l'ho solo ricordato. Okay, che c'entra? Che c'entra? No, in realtà avremmo un collegamento da fare. Sì. Ma io mi lo sai che più tardi ci colleghiamo anche con Ignazio? Ah sì? Sì, perché a Ballarò ho avuto un po' di problemi a ricordare chi fosse un personaggio abbastanza famoso. Sì, l'abbiamo notato. Sì, infatti poi diremo Lukashenko. Esatto. Ma questo viene. Sì, se no, più tardi. Ecco, vi faccio vedere proprio anche, diciamo, la parte interessante. Anteriore. No, insomma. Io direi che anche anteriormente Pippa si difende bene. Comunque, allora Andrea, vogliamo lanciare un pezzo o vogliamo collegarci con Fidelio? No, direi di lanciare un pezzo e poi ci colleghiamo con Fidelio che ci attende. Quale pezzo lanciamo? Lo voglio lanciare io, ti prego, è da tanto vuoi che non lanciare un pezzo? Sì, indicamelo, ti prego. Te lo indico, io direi, visto che è uscito oggi il nuovo video, ci ascoltiamo Chi Caparezza. Se ne frega della musica di Caparezza. È bello perché me l'ha fatto presentare. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Io con la musica non c'entro niente, come il mio pene davanti al WC a luci spente. Mi contraddico facilmente, ma lo faccio così spesso che questo fa di me una persona coerente. Ed ho tanto da dire perché ho poco da fare. Tu mi invidi, sorridi, mi proponi un affare. Cominciare con i temi di cui parla Faber e finire per un mese sull'isola a far la fame. Qualsiasi cosa faccia mi viene riconosciuta. No, è la mia faccia che viene riconosciuta. Molti dei miei fan che fanno la schiuma hanno la doppia faccia come il barone Ashura. Parlano con me come con un fratello grande, mi riprendono in mutande come nel Grande Fratello. Il video che mi fanno mentre lecco un urinale è cliccato più del video ufficiale della mia label. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi fischi, questi fischi, questi fischi. Non ho mai capito questi social network, per me servono solo a fare i porci a letto. Ogni volta che nasce una nuova piattaforma mi fa l'effetto di un libro che ho già letto. E poi non ho tutti sti amici ma molti meno, mi danno affetto ma poi mi affettano come demon. Tu è due ore che mi parli, io sono fan di Gandhi ed è solo per questo che non ti meno. Il mio cellulare squilla ogni due minuti, gente che mi assilla e mi chiede se ho due minuti. Assessori collettivi, sindacati, giornalisti, passo un giorno i miei testicoli non sono più minuti. mi stupisco, pubblico un disco e mi fanno le foto in pubblico, perché non capisco. Oh, non vi interessano le note che registro, vi interessano le mie note sul registro. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi fischi, questi fischi, questi fischi. Io non faccio musica, ma il cacchio che mi pare, faccio rosicare chi ama il genere musicale. Non parlo male di un collega o di un presunto tale, ma riciclo il suo CD come regalo di Natale. Non mi faccio i flash come Syd Barrett, non mi piacciono i flash sul red carpet, e me ne frego degli artisti veri, tanto gli artisti veri sono veri come i Muppet. In questo meccanismo che non posso inceppare, la rete non è Che Guevara, anche se si finge tale. Al primo posto nella classifica digitale, che tu ci credo o meno, c'è solo chi vince i talent. Ed io non so cantare, già, ma soprattutto non so piangere in pubblico per bucare lo schermo. Toglimi tutto questo che magari mi fermo, di certo non mi freddo in una stanza d'albergo. Di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti i mercenari della musica, in queste trasmissioni sulla musica, di tutti questi artisti, della Pizzi, di Battisti, di Zanicchi, di Stravinsky, di Lizzi, di Mischi, dei Pisti, degli Ipsi, dei Lipsinchi. Siamo tornati in onda dopo aver ascoltato Chi se ne frega della musica del buon vecchio Caparezza in arte Salvemini. Michele Salvemini. Michele Salvemini. Attenzione, attenzione, notizia, notizia. Estrae lo strofinaccio dalla lavatrice e in una macchia riconosce il volto di Gesù, che le consiglia il lavaggio a 60 gradi. Pazzesco, questa notizia è appena uscita, Dodò. Oh, è uscita ora. La lavatrice. È la lavatrice. Oh, ma cioè, si può manifestare ovunque Gesù, anch'io credo in lui, quindi voglio dire, si può manifestare ovunque. Allora, senti Andrea, io... volevo dirti una cosa molto importante. Vorrei aprire un tema. Noi di solito non lo facciamo. Noi o spariamo cazzate, o spariamo cazzate, o ospitiamo coglioni. Queste sono più o meno le nostre aspettative. Cioè, la gente si aspetta questo dal programma. Io vorrei lanciare un quesito che ti può sembrare un po' bimbo minchiato o non so, qualcosa di simile. Però secondo me ci si può riflettere. Vi faccio una domanda. Mi devo andare a arrivare. No, aspetta. Sto tremando. È una domanda vera. E mi aspetto che sul profilo Facebook o in qualunque modo ce lo dicano. Anche chiamandoci allo 091 811 0089, giusto Totò? Sì. Benissimo. Se il tuo migliore amico Andrea, tu hai un migliore amico, ti faccio una domanda. No, non è una domanda, è una domanda normalissima. Non mi guardare che già aspetti la battuta cretina. È un argomento che ci ho pensato la tonta con un amico. Sti cazzi. Se il tuo migliore amico sta con una ragazza, no? E questa è anche tua amica, giusto? Sì. Aspetta, tranquillo, non fare così. No, dimmi. E lei lo tradisce. Tu cosa fai? In che senso? Cioè, nel senso, tu ti accorgi, scopri che lei tradisce il tuo migliore amico. Figlia, ma... no. Ah, non glielo dici quindi all'amico? Ma guarda, non me ne può fregare di meno. Ah, quindi con lui già non si pone il problema. Che arriva l'amicizia. Infatti, Totò, tu invece? Sti cazzi, dice. Cioè, il grande capo. E quindi, tu invece che faresti, scusami? Ma certamente cercherei di attirare la sua attenzione sul problema. Faresti capire che c'è qualcosa che magari in un modo o nell'altro. In un modo o nell'altro. Ma la domanda veramente interessante, che non la faccio ad Andrea perché ho capito che dà delle belle risposte, la faccio a te. Se invece tu scopri che il mio amico e la fidanzata sono molto amici tuoi, c'è anche lei, e scopri che il miglior amico tradisce la fidanzata, tu che fai? Stessa cosa. Dici? Certo. Lui, perché questa musica di sottofondo tristissima? È perché l'argomento è triste. Aspetta, lui ha risposto a botto. Tu invece che faresti? Anche lì tu, secondo... Vabbè, se mi hai risposto prima, che faresti? Ma contando che devo andare al Pride, io ci vorrei con lui. E torniamo in disco dopo aver ascoltato questa frase omosessuale. Ci dobbiamo collegare con una persona molto cara. No, la chiamiamo perché è qua fuori. Ah, è qua fuori. Sì, allora, sì, vai, sì, aprire la porta, Andrea, per piacere. Sta arrivando. Io, Fidelio, il nostro amico. Per favore, ti prego di mettere un sottofondo a tema. Ora lui cerca comunismo internazionale, socialismo, qualsiasi cosa. Non so, rosso, qualsiasi cosa trova. Anche il rosso di sera, bel tempo, si spera. Va bene, ci colleghiamo quindi, l'abbiamo aspettato qui, un attimo, lo vedo già che si sta preparando il microfono, con il nostro ormai appuntamento fisso, è un appuntamento fisso del nostro programma, da 4 settimane ci segue all'Onda in Onda un ragazzo che ha una bella storia a raccontarci. Lui viene da Regalcioffoli, ridente paese dell'entroterra Siculo, in provincia di... No, è una frazione di... come si chiama? Scusi, ce la dici tu? Allora, salve, sono Fidelio Cusimano, vengo da Regalcioffoli, sono nel comitato Giancarlo Mattello. Scusa Cusimano, ti hanno messo il sottofondo. Sì, lo so, perché insomma quando arrivo io arriva sempre Internazionale con me. E noi praticamente siamo... Si blocca anche, vedo, collettivo non va molto avanti. Giancarlo Mattello. Ah, il collettivo. Sì, esatto, il collettivo Giancarlo Mattello. Ti è arrivato un messaggio di Regalcioffoli, sì, è Lenin e mi sta cercando. Ah, è Lenin, hai capito? Lenin è come Bin Laden che lancia i videomessaggi ormai dall'aldilà, vai. Esatto, appunto, Fidelio Cusimano del collettivo Giancarlo Mattello, già ci siamo visti insomma un sacco di volte. Io apprezzo questo spazio che l'Etere riserva a noi ragazzi, studenti, che ogni diciamo che non è che proprio lo riserva, cioè, esatto, però diciamo è raccomandato, e quindi lo facciamo, ci battiamo per informare tutti quanti sulle nostre tematiche, perché noi del collettivo Giancarlo Mattello... Senti Fidelio, ma per chi non ti conoscesse, perché sennò se non gli metti pausa lui non si fermerebbe mai, per i giovani che non ti conoscono, perché dovrebbero ad esempio iscriversi al collettivo Giancarlo Mattello? Perché intanto Giancarlo Mattello è una figura importante che ha dato spazio al comunismo in Sicilia, in quanto lui è stato un ragazzo che è stato ucciso ingiustamente dalla polizia spagnola in territorio tedesco. Pensate, addirittura, quindi proprio fuori frontiera. Esatto. Una storia di estradizione e di follia. Intanto Totò sta cercando estradizione. Comunque, allora, stavamo dicendo, scusami, io so che voi proiettate spesso dei film per ogni settimana. E qual è l'ultimo film? Una cosa innovativa a Regalcioffoli, il nostro comune grandissimo. Attenzione, un comune. E noi facciamo una cosa innovativa che non si vede da tanto tempo, che è un cineforum su film sociali, dall'impegno sociale profondo. Ma cineforum o forum nel senso che si svolge in un buco, in una sala piccola? No, è un cineforum enorme, conta ben 20 sedie. 20 sedie, Totò. Tutte rosse. Prenotane una. Le sedie rosse. E ognuno appena poggi il sedere parte l'internazionale. Esatto. Tipo le scarpe, sai, quelle che si illuminavano quando eravamo noi bambini. Tutti eri già novantenne. Consigliamo di iscrivervi al collettivo Giancarlo Mattello. Qual è il prossimo film che proietteremo? Allora, questa sera, per chi volesse venire a trovarci a Regalcioffoli, sì, proiettiamo un bellissimo film del famosissimo regista catanese Omar Di Liberto. Omar Di Liberto, grandissimo. Sì, Omar Di Liberto. Il titolo del film? Il titolo del film è Io e i miei animali, la vera storia di un pagliaccio. Ah. È un film che praticamente va oltre Orwell, dopo La fattoria degli animali, esalta l'uguaglianza espressa dal comunismo nel trattare gli animali come fossero esseri umani. Orwell infatti diceva appunto che certe persone sono più, certi animali sono più uguali di altri, dicendo appunto che i maiali... E su queste note Fidelio si allontana volando. Ti prego di alzare il volume, Fidelio, grazie per esserci stato. Vi invito non veramente. Ci credo. Fidelio basta, cioè, Fidelio Cusimano, okay. Appunto, il collettivo Fidelio adesso basta, tu sei un egoista, tu un maschilista, tu dei miei nemici, tu sei il primo della lista, tu sei un qualunquista, tu un casinista, tu sei pessimista e me ne freghista, esibizionista, tu. Se parli ancora giuro chiamo un esorcista, tu. Mi suggerisca la parola giusta, chissà se c'è, oppure battiti, prova a convincermi e poi dimostrami se veramente mi saprai portare in estasi. Allora resta, sì, resta qui. Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te, ma so che questo non conviene, non conviene. Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te, ma so che questo non va bene. So che questo non va bene. Non basta, non è me che volevi, confessa, non è a me che pensavi e non resta. Ed eccoci tornati in diretta dopo l'ascolto di Daniele Silvestri con Sempre di Domenica. Un bel pezzo, se non sbaglio risale al 2001-2002. Bah. Attenzione. Attenzione, attenzione, mi sa che ci è venuto a trovare. Ah, c'è un nuovo amico. C'è un nuovo amico, chiamiamolo, perché lui si occupa di dolci. È dolcissimo, infatti è a tema con questo periodo, perché appunto si attende il Pride, che l'anno scorso ha avuto un bellissimo successo e quest'anno verrà riproposto appunto a Palermo. Abbiamo con noi uno degli ospiti. Riempi il cannolo. Eccolo, uno degli ospiti del grande Pride. Lui è Iris, il pasticcere gay. E quando lo presento, Bobbe gay è un'esagerazione gratuita. Addirittura, perché? Pronto? Cioè, Iris. Mi stavo affogando, troppi cannoli ho consumato oggi. Sì, abbiamo notato. Perché ci sei venuto a trovare, Iris? So Ma che perché? Ci... Tu mi hai invitato. Ti ho invitato, partiamo da questo. Ti sei autoinvitato. So che ci seguivi da molto e aspettavi il momento di... Io seguo sempre. Non lo dico, di venire, perché so che... A venire. Lo sapevo che... Io vi seguo da molto tempo. Diciamo che ti seguo anche sotto casa. Addirittura. Ti potrei denunciare per stalking, ma... Passiamo a un altro argomento. Allora, tu sei pasticcere. Perché un pasticcere così affezionato alla radio? Insomma, raccontaci un po' di te, del tuo mestiere. Vogliamo conoscere, insomma, la tua passione. Beh, diciamo che quando preparo i babà e tutte quelle cose che si fanno in un bar, quando non ci sono clienti, mi sento tanto solo, accendo la radio. Va bene, no. Ah, ok, accendi la radio. Oh, cosa hai pensato? Quello avviene nel retro bottega regolarmente. Retro bottega. E ti diverti. Ho capito, Iris, sei molto simpatico. Ti piace il mio nome? Sì, bellissimo. Dimmi una cosa. Non capisco. Parteciperai... Ciao, ma chi è quel bel giovinotto dietro il vetro? Appunto, c'è il vetro. Ciao, ma io so come Pensa raggiungerti. Pensa a me che invece ce l'ho qui. Ma ascoltami, Iris, tu andrai al Pride quest'anno? Ma l'ho organizzato io insieme a Vladimiro. Addirittura, veramente l'ha organizzato l'Arci? Non so L'Arci, l'Arciprete. L'Arciprete. Perché? Come perché? Chi è l'Arci? L'Arci, l'associazione Arci Regionale Cessi Italiani? Ma non c'entra, non è l'acronimo. E cos'è l'Arci? Niente, Fidelio, una cosa a cui probabilmente Ma tu... non mi chiamo Fidelio, Fidelio un po' di Signori, ci scusiamo per il disturbo. Sei veramente un disastro. Fidelio è andato via prima, l'ho sentito. Bel ragazzo, è un po'... Un po' sporco, come tutti i comunisti, d'altronde. Vabbè, perché a te piacciono puliti. A me piacciono un po' depilati. Un po' depilati. Un po', mezzo un po petto. Questi luoghi comuni che il comunista è sporco, non ho capito. Assolutamente. Beh. Perché tu sei comunista? Beh, dico no, però li conosco i comunisti. Ne vedo qualcuno proprio. Tu sei comunista? Ecco quel tampo di cipolla entrando, è la tua ascella, che schifo. E lì ridono, se la ridono. Senti, ti dico che ti salutano, insomma, ci saluta Elena, dice che... Ciao Elena, se sei lesbo possiamo incontrarci. Non credo, ma in ogni caso dice che si capisce che facciamo i coglioni. No. I coglioni! Ecco, lo sapevo. Non lo dire queste cose, come se dice un bimbo i balocchi. Senti Iris, facciamo una cosa, perché non te ne vai, fa tornare Antonio che aspetta il posto a sedere. Certo, ancora Bravo, si Iris. Sta mettendo la cremina. No, Antonio. Non te la sta mettendo la cremina, Antonio. Ti ho lasciato Riccardo. Non ne ha bisogno, credo, fallo tornare, noi ti salutiamo, ti aspettiamo il prossimo mercoledì. Io spero. Vi aspetto nel mio bar, via degli schiuppettati numero 69, ciao. Ciao Iris, invece ricordiamo che in via degli schioppettieri a Palermo c'è ancora la mostra di Andrea Mastella. Ah sì, Gambino. Volevo parlarne, c'è questo ragazzo, un pirla, e un altro ragazzo che invece è un collega molto valido di medicina. Angelo Gambino è Andrea Massaro, omonimo al nostro conduttore, però potrebbe anche essere lui, chi lo sa. Per scoprirlo andate alla mostra, se lo trovate all'ingresso fino all'8 maggio. È l'emosina un ingresso, insomma, esatto. Fino all'8 maggio vedrete una mostra con foto, diciamo, abbastanza tranquille. E inoltre vorrei fare un appello a tutti quelli che stanno pubblicando nella bacheca di Facebook. Bellissimo il link sul video di Bin Laden. È un falso. Se ci cliccate sopra, lo manderà a tutti. A tutti. Siete è degli una idioti. Sorta di catena di Sant'Antonio, di Sant'Antonio involontaria. Esatto. Quasi. Quindi non lo fate perché siete dei deficienti. Già, quattro persone me l'hanno sputato sulla bacheca. Esatto. Anche nella bacheca di London, io ho prontamente eliminato. Quindi bravo, non ci cliccate sopra. Ma è un virus che può far non male. Ne ho non... la minima idea. Non me ne frega si niente. Spera di posso si spera di la no. verità. Si spera di no. Intanto io manderei il prossimo pezzo. E poi vorrei parlare di un fenomeno che sta prendendo molto quota, che è il burlesque. Ne parliamo dopo il pezzo. Va bene, allora ci ascoltiamo intanto i Subsonica con Istrice. lampioni e portici. È andata così, piccola istrice, dagli occhi bui, quel bacio alcolico, rossetto è guai, è stato facile, non lo è stato mai. Chi ci ricorderà? Chi ti farà ridere? Per chi ti smarrirai? Chi userà lo sguardo tuo? Chi lo fa al posto mio? Io dove sarò? Bello tornare in diretta subito. Sì, avevo un po', però tu non è che la gente sa cosa succede quando non siamo in onda. Mi sono accorto che sto il pezzo di prima è stato rimesso un'altra volta perché Totò non funziona. E se non si era notato, voi avete sbarcato le palle per farlo notare. Addirittura! Guarda un po' chi c'è, uno dei conduttori di Positive Vibration. Appunto, perché ricordiamo che fra pochissimo, fra 20 andranno minuti andranno in onda i ragazzi di Positive Vibration. Puoi dire una sola parola, scegliela. Ciao. Perfetto, abbiamo pensato, ti ringraziamo. La posso fare un po' di pubblicità un attimino? No, non hai detto 8. No, ti pubblicizziamo noi, tranquillo. Aspetta. No, Claudio, parla, è una serata importante, ragazzi. Mi dovete perché scusare. Finalmente perché... te ne vai. Benissimo. No, questa sera Positive Vibration ha un'intervista programmata. Quindi col insomma... corpo di Bob Marley. No, con i Dot Vibes, grande importante gruppo italiano di biella. Quindi non mancate. Ah, vabbè, allora ti porterò la mia biella. Tra vabbè. Una biella e un pistone. Stasera. Okay. Ti infilo il pistone. Vabbè. Allora, torniamo a noi. Scusate per la scurrilità. Intanto Andrea mi sta mostrando le immagini dell'ultima gita in campagna. E dunque torniamo. Mi fa piacere, dico. Mi sì, no. Sì, sì, vabbè, sì, lui sì. Mi fa vedere queste cose mentre uno studia. Dopo te le mostriamo anche a te le immagini. Mentre uno conduce. E senti, stavo accennando al burlesque. Al burlesque. Tu ne sai anche qualcosa più di me. Il burlesque è questo genere che... Toto, tu cosa sai del burlesque? E io ho visto una conferenza sul burlesque proprio qui a Termini Imerese, che è stata tenuta qualche giorno fa al Grand Hotel, se non sbaglio. No, al Museo Civico. Il 23 aprile al Museo Civico. Nudità, Eva, tra Eva e moderno burlesque. Sì. Il burlesque è questo genere nato, se non erro, dal nome, tra penso, l'altro, scusami, se non sbaglio, è venuto a parlare l'assessore Campagna proprio il mercoledì in cui abbiamo trasmesso noi, ti ricordi? Sì, se non sbaglio, sì. Se non sbaglio, sì. Se non sbaglio, sì. Sì, esattamente. Totò intanto guardava le foto di famiglia. Comunque, anche lui. Stavamo dicendo che il burlesque, se non erro, dovrebbe essere nato in Francia. Mettimi una musica. Perché il cancan? Perché il cancan? Oddio, in realtà, è nato in Inghilterra. Il burlesque nell'Ottocento ed era una parodia della nudità. Harry Scott è successo negli Stati Uniti successivamente. Intorno al 1800, ai primi del Novecento. Comunque, diciamo che è un genere nato per, come dire, dicevo stesso nome, burlesque. È un po' una strizzatina d'occhio, un burlarsi di quelli che erano i classici Una parodia dei classici generi che vedevano protagoniste pin-up, donne dal corpo perfetto. Mentre queste qui. Le pin-up in realtà arrivano dopo. Le pin-up arrivano. Sto sbagliando. In effetti, pin-up sono anni 30, 40, 50. Sono del 1900. Sì. Se non sbaglio. Sì. Però, allora, scusami, nacque come risposta a quale altro genere? Il cabaret, forse? Era sì, una risposta più che altro. Perché sì, se doveva burlarsi di qualcosa, si doveva burlare o del cabaret, insomma, di quegli anni. Oddio, sì. Come vedete, siamo preparati. Era una burla del cabaret e anche degli striptease che c'erano, esatto, nei locali, diciamo, londinesi, sì, un po' più. Sì. Quelli, presente Soho, che ormai è rimasto. Sì, perfetto. Il burlesque invece era semplicemente una cosa satirica, comica, insomma, doveva semplicemente tirare su il morale a quelli che erano i personaggi un po' più poveri. Infatti era appunto uno spettacolo per la gente povera, per questo era, esatto, era andato molto, molto di voga. Negli Stati Uniti invece si diffuse intorno alla metà del Settecento, che però, per oltre un secolo non godette di molta popolarità. Ora diciamo che sta rivivendo, lo chiamano il new burlesque, perché dagli anni 90, con questa moda legata alla cultura vintage, è nato questo new burlesque, da cui poi addirittura derivò anche il dark cabaret. Sono spettacoli con luci particolari, sì, una delle rappresentanti più importanti, la gnocca più famosa è Dita Fontis. E non solo, tra l'altro Marilyn Manson ha usato moltissime scenografie di dark burlesque nei suoi spettacoli, anche perché insomma lui era la moglie, ma ancora sposati sono? No, si sono lasciati, vabbè. Lei si sarà sposata con una coppa di martini, una di quelle in cui fa quegli spettacoli. Ma tra l'altro un signore palermitano ci venne un colpo di sangue, come si suol dire, proprio esatto, quando ho visto sua figlia che si esibiva in uno spettacolo burlesque. Questo signore palermitano era emigrato in America e sua figlia era Lady Gaga. No, Lady Gaga. Che tra l'altro è di origine italiana, infatti il cognome fa Germanotta. Sì, ma no, è di Palermo. Tra l'altro è mezza imparentata. C'è una palermitana che fa Lady Gaga, però in versione siciliana. Sì. Vabbè, chi sarebbe? Giuseppe Giambrone. Esatto. Una palermitana, Giuseppe Giambrone. Lo salutiamo, tra l'altro lo conosco. Saluto Giuseppe Giambrone. Allora, dicevamo, scusami, Andrea. Dicevamo, vabbè, che anche in Cristina Aguilera è molto burlesque nel suo modo di cantare, presentarsi ai concerti. Forse un po' più pulla, però va bene anche dai. Oh no, vabbè, anche burlesque è carino come Solamente che stiamo diventando un po' mainstream questa cosa del burlesque. Sì. Hanno fatto anche sta dicendo che sta diventando popolare. Ma saperlo tutti, non è più una cosa di nicchia, come direbbe esatto, qualcuno. Esatto, anche perché ci hanno fatto il film, insomma, sta venendo commercializzato, lo fanno cani e porci. E vabbè, diciamo che quando c'è un fenomeno, poi lo sai che è difficile fermare la macchia d'olio che si espande. Poi addirittura in Italia l'ha portato Dita Fontis anche a Sanremo, che è una vetrina importantissima, e gli italiani iniziano a dire che è sto burlesque, andiamoci a vedere qualche bello spettacolo. Visto, anche a Palermo hanno organizzato uno spettacolo. Una bella cagata. Se ah, perfetto, è bello quando Andrea parla bene degli spettacoli. Sì, vabbè, mi dispiace insomma, per chi ci sta ascoltando e magari si sente critico di estrazione, esatto, no, no, magari qualcuno che fa burlesque l'ha fatto a Palermo, ma io posso dire che l'ho visto a Milano quindi ed era una leggera un po' meglio. Senti, ma noi dobbiamo collegarci con un ministro, è ora di collegarci con un ministro che ha fatto qualche piccola gaffe a Ballarò. Sì, vediamo sì, se sì. Riusciamo a trovarlo. Toto, puoi riuscire a chiamarlo? Vedi se la linea è libera, perché vediamo, è libero. Pronto? Sì, questa è la soneria. Cos'è? Presidente, ministro. Presidente, tra qualche anno. Addirittura. Sì. scalzerò Berlusconi. Lui non lo sa, state zitto, non glielo dite. Non glielo dirò, non glielo dirò. No, ma l'ho chiamato presidente perché lei non sapeva chi era il presidente. Insomma, aspetta, ok, non ne parliamo. Non un attimo, devo parlare con i miei amici. Chi è Berlusconi? No, eh? Come chi è Berlusconi? E Heidi? No, perché mi mancano alcune fondamenta di base. Heidi? Non so chi è Heidi. No. Come no? Conosco il nonno. Il nonno era un antipartigiano della prima ora. Sì. Il nonno stava nelle montagne. Appunto. Non è che tutti quelli che stanno in montagna sono partigiani. Allora tutti quelli che stanno sul trespolo sono pappagalli. Ma lei è un cretino. Ah certo, ho capito. Ma mi dica ministro, abbiamo visto che lei ha fatto una leggera gaffa, insomma, da non zero. Ma leggerissima, non se ne è accorto nessuno. Insomma, ma io stavo parlando con i miei amici, mi si avvicina Floris. Parli, ministro, c'è nessuno. Ma come si permette questo comunista? Ma Floris non è comunista. Vabbè, sappiamo che voi etichettate tutti come comunisti. Ma mi dica, adesso l'ha capito chi è Lukashenko? L'ho capito. Chi è? Un attimo. Vieni. Alla fine quello. È un venditore di patatine russe. No! Come no? No! Vicino a Montecitorio. Il presidente si chiama Luca Fanzioshenko. Ho capito. Non è Lukashenko tutto unito con la K. È Lukashenko tutto unito con la K. Ma Lukashenko, detto così, pare una delle mie zone, di Agrigento, no? Ma lei non è di Agrigento. Lukashenko, insomma. Lukashenko, non credo. Lei è di Agrigento. Io sono nato nel tempio di Artemide. O della Vittoria, non mi ricordo il nome. Addirittura, ma insomma, è il presidente della Bielorussia. Lei ci ha fatto una gaffe abbastanza grossa. Allora sarà magari tutto modificato dopo il disastro di Chernobyl. Ma che c'entra? Non è in Bielorussia, certo. No. Scusi, Ucraina. Dov'è la Chernobyl? Chernobyl, in Russia. Non era in Russia. Aspetta. In Bielo. In Bielo, no. Era in Ucraina. Era in Ucraina. C'è mia moglie in Ucraina in viaggio. Non me lo può dire così che si trova là. E mi ha detto che non ci andava vicino alle radiazioni. Cornuta. C'è queste inflessioni. Cornuta. Ma insomma, ministro. Tu mi stavi chiamando di nuovo presidente. Sì. Perché siamo abituati e qui ci chiamano tutti presidenti. E lei... mi pare giusto. No, vabbè, insomma, anche a noi pare giusto, ci fa piacere. Io devo andare. Ma non ci ha chiamato Lukashenko. Lo contattiamo. Io posso avere un attimo. Se può avere il nome Lukashenko. Ma lei lo sa chi è Lukashenko? Io ripeto, non ho idea, io vado. Va bene, ministro, la salutiamo. Insomma, grazie, insomma, ministro Lussa che ci è venuto a trovare. È stato un pochettino vago, Antonio, se non sbaglio, il ministro. Non era proprio... Sì, non era molto sicuro. Secondo me non si è informato granché sulla vera identità di Lukashenko. Però anche io, sentendo Lukashenko, penso che sia Lukashenko, non ti seccare. Addirittura. Sì, perché tu lo sapevi che era il presidente della Bielorussia invece. Certo che lo sapevo. Ma stai zitto. Certo che lo sapevo. Io sfido avanti. Non mi è informato nel paese. Claudio, puoi dire un'altra parola? Sapevi che Lukashenko era il presidente della Bielorussia? Ovviamente. Lo sappiamo. Ovviamente tutti. No, sarebbe. Vabbè, no. Lo stai chiedendo al presidente di Sel qua. Appunto, è il presidente di Sel. Lui, ho capito, non è che ora uno dei conosce tutti i nomi dei presidenti di Salvo, sinistro. Siamo in campagna elettorale. Come chiedergli chi è Rosa Luxemburg? A termini no. Chi è Rosa Luxemburg? Come chi è Rosa Luxemburg? Aspetta, questa l'ho sentita nominare. Ah, attenzione. Ragazzi, non è che può sapere uno tutto nella vita. Vogliamo parlare di Anna. Perché non fai tornare il ministro di se lui lo sa chi è Rosa Luxemburg? Ecco. Ministro, lei sa chi è Rosa Luxemburg? Sì, una fioraia. Ecco, lo sapevo. Comunque, vabbè, è tornato il ministro, se n'è andato, velocissimo. E niente, ci ascoltiamo un nuovo pezzo, credo. Un altro gran pezzo. Sì, ci ascoltiamo un nuovo pezzo che è... E comunque Rosa Luxemburg è lo pseudonimo di Rosalia Luxemburg, nata a Zamosch il 5 marzo del 1880. Lo ricordo benissimo, è stata una politica teorica, socialista e rivoluzionaria tedesca di origini polacche ed ebraiche. Apprezzo la tua velocità nel cliccare Wikipedia. Assolutamente non ho Wikipedia, potete vederlo, il computer è distante da me, io non ho gli occhiali. Ci sono solo 4 monitor in questa sala. Beh, però sono distanti da me. Va bene, ci ascoltiamo The All American Rejects con Give You Hell. Hey, tutto per voi. Quale, scusa? The All American Rejects. È bello Rejects quando Totò recepisce con Gives volo You Hell. Te la ripeto, Totò. Vediamo, ecco, Claudio l'aiutante dei non vedenti. Claudio è tipo il cane, sai, per Totò lo aiuta a vedere sopra. Un cretino. Vabbè, love. l'American Rejects con Siamo tornati in diretta dopo questo grande pezzo gasante. Totò, quanti minuti abbiamo? Pochi. Va bene, allora facciamo una cosa. Lasciamo i saluti e poi ci ascoltiamo i Walcherry. Allora, intanto abbiamo un minuto e 40 secondi. Salutiamo Alessia, Sonia, Fabio, Gloria, Jacopo e tutti gli altri che ci hanno ascoltato. Esatto, tutti quelli che ci hanno ascoltato tutti e che se amano. Volessero risentire la puntata e sono così proprio masochisti, pazzi. Ricordiamo che potete andare su blogspot.com/ondainonda e vi riascoltate la nostra bellissima puntata. Però potrebbero anche consigliarla a chi non l'ha ascoltata. Magari loro non si fanno del male, ma sadicamente la consigliano. Vai, ascolta l'onda in onda. Condividetela su Facebook. Ci ascoltiamo i Walcherry. E ci vediamo mercoledì prossimo alle 19:30, sempre su Radio Centrale. Ci sentiamo. Sempre io, Totò e Andrea Massaro. Ciao.